Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Venerdì 10 settembre, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti sempre su Liberi Dentro Eduradio TV. Io sono sempre Caterina Bombarda con Antonella Cortese qui con me. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. Abbiamo l'onore di avere la cura e la conduzione di questo programma già da mesi, già dall'anno scorso in realtà, di questo programma che fa da ponte tra carcere e città. E le notizie che abbiamo scelto per voi oggi, lo sapete, il venerdì è un po' la giornata che riguarda notizie di cultura e società, ma legata a un mondo particolare che è quello della faunistica, quindi abbiamo scelto gli animali. Oggi vi parlo a Spoleto del progetto Fuori dalle gabbie, un progetto di inclusione per cani e persone detenute. Lo leggo da News in Dies, è operativo per l'appunto il piccolo centro di accoglienza e addestramento per cani abbandonati allestito presso la casa di reclusione di Spoleto. Si chiama Fuori dalle gabbie, è stato avviato nel 2019 grazie alla collaborazione tra il comune, la fondazione, la casa di reclusione di Spoleto e la fondazione Cave Canem, che una piccola particolarità, Cave Canem significa attenti al cane dal latino, ed è una frase diventata famosa perché rappresenta un famoso mosaico sulla soglia di una delle case degli scavi di Pompei, quindi è famosissima, e questo progetto Fuori dalle gabbie vuole essere uno strumento per garantire un servizio elevato qualitativamente di accudimento dei cani senza famiglia affidati al comune di Spoleto per offrire una seconda opportunità a persone detenute e fare del canile comunale un luogo di transito per animali ospitati e in cerca di casa. Ci sono dei box coibentati, un ampio spazio verde, la sorveglianza costante da parte degli agenti e naturalmente persone detenute adeguatamente selezionate e formate con le quali i cani possono interagire e giocare nel corso della giornata fino al momento chiaramente dell'adozione. Questo non è un argomento che non abbiamo mai trattato, in realtà abbiamo parlato spesso della poca disponibilità delle case circondariali ad accogliere gli animali e questo anche per la questione degli abusi purtroppo subiti da questi ultimi. Purtroppo è proprio così, è stata una cosa, una tantum, pochissimi carceri hanno questa possibilità di mettere a contatto gli animali con le persone detenute e si spera che con un maggiore processo di coscientizzazione si apra a più case di reclusioni. È questo un modello di gestione accudimento alternativo al canile che ha trovato anche il parere favorevole dell'azienda sanitaria, pensate, locale e territorialmente competente. E dallo scorso 26 luglio è diventato operativo e ha permesso di accogliere i primi cani abbandonati. Sono 8, adesso ci sono cuccioli accolti, affidati dal comune di Spoleto alle cure di questa nuova realtà. Senti, e come funzionerà l'accudimento? Beh, allora, in questa prima fase i cuccioli verranno coinvolti nelle attività di interazione e socializzazione per accrescere il loro indice di adattabilità, nella speranza che per loro si apra una vera e propria casa. E quindi dopo la prima fase del progetto che ha visto i detenuti impegnati non solo nella manutenzione del canile ma anche nel corso di formazione intensivo per avere le conoscenze base in materia, saranno poi due le attività che caratterizzeranno la seconda fase. Innanzitutto verrà affidato ai detenuti il compito di garantire piena operatività del centro, il coordinamento, la gestione di questo centro nato per accogliere cani senza famiglia che hanno esigenze specifiche. Ci sono mamme con cuccioli, cani anziani, cani con problematiche comportamentali. E poi successivamente ci sarà l'attività di accudimento, la gestione e la socializzazione dei cani nel momento del trasferimento alle famiglie che li adotteranno. Quindi è un progetto veramente bellissimo che vedrà le persone detenute impegnate nella manutenzione straordinaria del rifugio con la possibilità anche di offrire supporto alle attività di accudimento e socializzazione dei 120 cani ospitati. E va quindi avanti con sinergia un modello di coprogettazione che vuole costruire un precedente importante di lotta al randagismo, ma anche allo stesso tempo l'inclusione sociale che vede coinvolti enti pubblici e realtà no profit con obiettivi comuni e condivisi. Voglio dedicare una canzone a tutte queste persone detenute, al comune anche che ha permesso di fare questa bellissima attività. L'ho scoperta l'altro giorno, Cat Stevens, I Love My Dog. A tra poco. My dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. All the pay I need comes the shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. As much as I love you, though you may fade, my dog will always come through. Rieccoci, bentornati, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Il venerdì, come sapete, è la giornata che noi dedichiamo ai nostri amici a quattro zampe e tu, Antonella, hai il compito di parlarci degli elefanti. In realtà ce ne hai già parlato, ma in questa seconda parte perché? Cosa aggiungiamo? Per il nostro venerdì animalesco aggiungiamo qualcosa su questi pachidermi. Abbiamo parlato la volta scorsa dei 15 elefanti che hanno gironzolato in Cina per circa un anno. E oggi scopriamo chi sono effettivamente. Allora, prima di tutto sono i più grandi mammiferi del pianeta che vivono sulla terraferma. Sono superati per grandezza solo da alcuni giganteschi mammiferi marini che abitano gli oceani. Esistono tre specie di elefanti ed alcune sottospecie che vivono in diversi habitat. Intanto, come vi dicevo, è un mammifero, significa che ha i cuccioli, che partorisce i cuccioli, e il cucciolo di elefante alla nascita, pensate, pesa già 90 kg ed è alto circa un metro, ma i primi giorni è instabile e ha bisogno dell'aiuto della mamma, che tenerezza. E per i primi tre mesi il latte materno è l'unico alimento che assume, mentre impara poco alla volta a mangiare e a bere con la proboscide di cui è dotato fin dalla nascita. Però alla nascita ha poco controllo della proboscide e a volte gli fa anche perdere l'equilibrio. E quindi vedete questi elefantini che ogni tanto cadono e si inciampano nella proboscide, sono veramente meravigliosi. Hai detto quindi che esistono tre specie di elefanti, non era prima così, noi pensavamo ne esistessero solo due, vero? Esatto, infatti prima sembrava ce ne fossero solo due, ma una recente ricerca pubblicata a gennaio del 2018 dall'Accademia Nazionale di Scienze degli Stati Uniti dimostra invece che le specie esistenti sono tre e che l'elefante africano delle foreste, il Loxodonta ciclotis, che era fino a quel momento sempre stato classificato come sottospecie dell'elefante africano della savana, è invece una specie a sé stante. E in Africa esistono l'elefante della savana, che appunto è l'Loxodonta africana, e quello delle foreste, l'Loxodonta ciclotis. Quello della savana è il più grande dei due e di tutte le specie di elefante in realtà, infatti addirittura può raggiungere fino ai 7 metri di lunghezza e 4 metri al garrese, arrivando a pesare ben 7 tonnellate. Allo stato brado può vivere anche 50 anni, se non cade vittima di una malattia ovviamente o di caccia, e di solito muore solo dopo aver perso gli ultimi denti, che si consumano e per cui non è più in grado di alimentarsi. Però in cattività possono vivere anche di più, perché gli allevatori ovviamente si prendono cura anche della loro bocca e dei loro denti. L'elefante più longevo, Caterina, è stato Ling Wang, un elefante usato dalle forze di spedizione cinese nella seconda guerra cino-giapponese. Questo animale visse, pensa, per oltre 86 anni. Poi ci sono molte differenze tra le due specie di animali. Purtroppo l'elefante della savana è una specie a rischio di estinzione e, come spesso accade, la maggiore minaccia è rappresentata dai bracconieri e dall'urbanizzazione dell'habitat naturale. L'elefante africano delle foreste è il più piccolo delle tre specie di elefante, normalmente non supera i 2,5 metri d'altezza al garrese e smette di crescere all'età di 10-12 anni. Possono arrivare a pesare anche 6 tonnellate, ma non superano mai i 3 metri di altezza al garrese. È diffuso in Africa centrale e occidentale, caratterizzato appunto da pianure, da foreste tropicali, foreste pluviali e paludi. Ma Antonella, sono animali stanziali oppure migrano in qualche modo? Eh no, Kate, emigrano. Emigrano a seconda delle stagioni, spostandosi nelle zone paludose durante la stagione secca, per poi tornare alle pianure delle foreste tropicali durante la stagione delle piogge. Spesso le mandrie cercano rifugio nelle riserve naturali, poiché vengono perseguitati dai bracconieri per il prezioso avorio rosato venduto illegalmente. Considerato che l'elefante africano è una specie a rischio molto più del cugino della savana, il riconoscimento di status di specie a sé stante, quindi non di sottospecie, potrebbe dargli l'attenzione necessaria per evitare l'estinzione, e ovviamente noi ce lo auguriamo. E io continuerei con Rolling Stones, che ne pensi? L'ultimo brano. Esatto, continui e concludi. Continuo e concludo con un brano del 1978 per augurarvi un gran bel fine settimana. Rolling Stones, Start Me Up. I don't know. Rieccovi bentornati dopo la pausa musicale, siete sempre su Liberi Dentro Eduradio TV e per questa seconda parte con l'ospite abbiamo due ospiti con noi che in realtà conoscete, alcuni di voi li hanno già sentiti intervenire nelle nostre puntate. Fanno parte della redazione del giornalino Astrolabio prodotto all'interno della casa circondariale di Ferrara. Perché li avete sentiti su Eduradio? Perché Ferrara tuttora produce delle puntate che sono poi le rubriche, nelle rubriche oggi parliamo di, delle nostre puntate pomeridiane. Lei è Lorenza Cenacchi che insieme a Mauro Presini fanno appunto parte di Astrolabio, che è un giornale prodotto all'interno della casa circondariale di Ferrara. Questo progetto nasce nel 2009 e coinvolge una redazione interna di persone detenute insieme a persone ed enti che esprimono verso solidarietà verso la realtà carceraria. È un bimestrale che realizza il suo primo numero per l'appunto nel 2009 e nasce dall'idea di creare una opportunità di comunicazione tra l'interno e l'esterno, proprio come noi di Eduradio che vogliamo raccontare il carcere mantenendo però il legame con la cittadinanza. È uno strumento che dà voce quindi alle persone recluse ma anche alle persone che lavorano all'interno del carcere. Quindi raccoglie storie, dati statistici, iniziative, offrendo un'immagine della realtà dietro le sbarre che di fatto è ben diversa da quella percepita e filtrata dai media tradizionali. E per raccogliere più informazioni su Astrolabio io vi invito ad andare sul sito giornaleastrolabio.it, ma intanto do la parola a Lorenza e poi a seguire a Mauro Presini. Ascoltateli. Ciao a tutti, ciao a tutti gli ascoltatori di Eduradio TV, ciao a Caterina, ad Antonella e a Frate Ignazio, ciao a tutte le persone ristrette delle varie carceri dell'Emilia-Romagna, sono Lorenza Cenacchi e sono stata invitata a raccontarvi insieme a Mauro Presini la nostra esperienza dentro la casa circondariale di Ferrara. Noi coordiniamo Astrolabio, il giornale del carcere di Ferrara, e di recente l'area educatori ci ha invitato a partecipare ad una nuova iniziativa, quella di portare la redazione di Astrolabio dentro le varie sezioni del carcere, anche quelle sconosciute, quelle di cui noi stessi non sapevamo dell'esistenza. Quindi io e Mauro siamo entrati a conoscere i detenuti della sezione Z, della sezione C e della sezione dei protetti. Abbiamo sempre condotto l'attività di Astrolabio con i detenuti comuni, ma vedere, scoprire queste nuove realtà ci ha veramente emozionato. Abbiamo scoperto che dietro questa grande struttura si nascondono tante sezioni di cui non si conosce l'esistenza. Nella sezione C ci sono i collaboratori di giustizia, nella sezione Z ci sono i parenti dei collaboratori di giustizia che non collaborano e nella sezione dei protetti figurano persone che non possono, per incompatibilità, restare con i comuni. La nostra attività si sta svolgendo con un incontro quindicinale in ogni sezione e stiamo raccogliendo un sacco di materiale, stiamo facendo lavori di confronto e abbiamo addirittura individuato argomenti comuni da trattare durante le nostre sessioni. Ora passo la parola a Mauro che vi racconterà quali sono state le sue impressioni dei primi incontri. Arrivederci a tutti e grazie per l'ascolto. Mi chiamo Mauro Presini, faccio il maestro elementare, da più di 5 anni curo la redazione del giornale Astrolabio, che è appunto la pubblicazione del carcere di Ferrara. Da un mese circa, insieme a Lorenza Cenacchi, che insieme a me appunto coordina la redazione, stiamo in accordo soprattutto con le educatrici della casa circondariale Costantino Satta di Ferrara, abbiamo provato a modificare la struttura della redazione, che prima coinvolgeva soprattutto le persone ristrette nelle sezioni comuni. Questa trasformazione riguarda il fatto di rendere la redazione itinerante, cioè di spostarci. Nella pratica vuol dire insomma che io o Lorenza ci sposteremo, ci stiamo spostando, stiamo andando ad incontrare le persone ristrette anche nelle altre sezioni che non hanno un immediato contatto, la possibilità di avere contatti con le altre. Questo sicuramente offre una possibilità di occasioni educative e culturali superiore a quella precedente. Offre anche la possibilità di espressione, di scrittura a chi prima la coltivava magari per tenere rapporti con i propri familiari oppure per una passione personale. Questa opportunità a noi sembra una gran cosa, una cosa positiva, una cosa che possa rendere un po' più, come dire, inclusivo anche l'aspetto della casa circondariale rispetto alla possibilità di comprendere anche testi fatti da tutte le persone che sono interessate a partecipare. Una cosa che ci interessa è che abbiamo detto nella presentazione di questa redazione itinerante è che non è indispensabile per far parte della redazione appunto essere scrittori o essere portati per la scrittura, l'importante è avere voglia e bisogno di raccontarsi. È naturale che questo può essere spontaneo o può essere creata anche attraverso il lavoro di chi la coordina insieme alle altre persone. Non è sufficiente certamente il coordinatore se le persone che partecipano loro stesse non si rendono disponibili a svolgere un ruolo da protagonista appunto nella co-conduzione di questo gruppo. È interessante notare come qualcuno stesso per aumentare gli appuntamenti settimanali si sia già reso disponibile a coordinare i gruppi anche in assenza di Lorenza o del sottoscritto. Noi contiamo in questo modo insomma di raggiungere più persone, di offrire più possibilità e di avere un giornale sicuramente più, mi piace usare questo termine, inclusivo, che possa vedere i vari punti di vista di chi è ristretto, di chi che possa raccogliere le emozioni, i sogni e i bisogni delle persone che in questo momento insomma sono nel carcere di Ferrara e che hanno voglia di far sentire la propria voce al di fuori, che hanno voglia di rileggersi e di fare in modo che qualcun altro possa leggere e riflettere sui loro pensieri e le loro emozioni. Non c'è fortuna, non c'è destino, non c'è sorpresa per me, non c'è vittoria né aspirazione così importante per me, non c'è bellezza, frase ad effetto o un'assoluta verità, ma c'è un istante nell'universo, attimo eterno, in cui mi sento unica. Serve intento né sacrificio, una tentazione per me. Desiderare, voler sparire, resta un ricordo per me. Non serve dolore, normale attenzione, quella che riservo a te. Anche il silenzio che sento dentro quando mi avvolge diventa musica. E me insieme, niente vale qua. E ora è il momento di salutarci, siamo giunti al termine della nostra puntata. A seguire tra poco, se ci seguite sull'Epida TV, oppure nel pomeriggio, se ci seguite sul canale Teletricolore, oppure al mattino alle 6.30, se ci seguite sulla radio, le nostre rubriche con Islam, Religione e Civiltà, e poi a seguire Sonny Boy al cuore del CPA di Ferrara, ma anche per tutto il weekend le nostre rubriche con il Teatro del Pratello, Fomal, Note Libere, la spiritualità buddista vi accompagneranno. Ci rivediamo lunedì prossimo, un saluto da me e da Antonella Cortese e da Enea Flacco al montaggio di queste puntate. A presto! Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.